Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia e un'altra settimana economico-finanziaria da raccontare. Chiaramente oggi ci occuperemo soprattutto di Fiat, molte le dichiarazioni in questi giorni. Oggi anche il presidente di Confindustria Squinzi ha detto, non conosco la vicenda nel dettaglio, ma è importante, è fondamentale che resti una produzione automobilistica in questo paese. Per l'Italia. Altre dichiarazioni, il ministro Fornero ha smentito l'intervista citata oggi da Repubblica, in cui avrebbe detto, secondo l'intervista, Marchionne ci dica come cambia il progetto Fabbrica Italia. La Fiat è una multinazionale ma è anche una grande industria italiana. Ecco perché deve spiegarci quali sono le sue strategie. Poco fa il ministro ha detto non ho mai rilasciato questa intervista. Peccato, perché devo dire personalmente la linea di questa presunta intervista è una linea che sposo in toto, e cioè la Fiat fa quello che fa ogni gruppo privato, sceglie di produrre dove ha maggiori margini di produttività e maggiore mercato per le vendite, però per il ruolo che ha, per gli aiuti che ha ricevuto in questi decenni e anche per il fatto che quando c'è una cassa integrazione straordinaria la paghiamo tutti noi, deve chiarire quello che vuole fare una volta per tutte. Il progetto Fabbrica Italia nasce nel 2010, prevede 20 miliardi di investimenti, non decolla mai, ci sono solo 800 milioni a Pomigliano dopo l'accordo sindacale. Faccio notare una cosa senza nessuna polemica, senza nessun riferimento: in Francia, dove già il governo intervenne in maniera molto dura su Renault, oggi il ministro delle finanze francese Pierre Moscovici ha detto, attenzione, gli 8.000 tagli di lavoro annunciati dal gruppo Peugeot Citroën sono troppi, dovete ripensarci. Cioè, questo è il modo, non dico che sia giusto o sbagliato, ma questo è il modo in cui in Francia il governo dialoga con l'industria automobilistica e diciamo, dà delle linee chiave. In questo momento si nota, a mio avviso, un po' di silenzio da parte del governo. Almeno convocare il ministro Pastor ha detto non basta convocare Marchionne. Beh, iniziamo da lì però, giusto per farci spiegare e capire una volta per tutte. Ne parleremo più avanti con l'ex segretario della CGIL Guglielmo Epifani e l'ex ministro dello sviluppo economico Paolo Romani, che erano al tempo in carica, sia uno come segretario della CGIL, l'altro come ministro dello sviluppo economico, quando la Fiat dialogò per presentare il progetto Fabbrica Italia e chiedere nuove relazioni industriali, nuovi contratti a Pomigliano d'Arco. Ancora, per quello che riguarda i temi di questa giornata, ci occuperemo di quanto oggi è presente sul Sole 24 Ore, ossia, attenzione, sono calati i consumi degli italiani di benzina, quindi restiamo sempre in tema di auto, ma la cosa incredibile è che sono aumentati invece i ricavi per lo Stato. Perché lo dico? Perché la cosa pazzesca è che noi abbiamo speso meno, abbiamo acquistato meno benzina per via, immagino, soprattutto della crisi. Nei primi 8 mesi meno 9% i consumi di benzina e gasolio per autotrazione, quindi non c'entra il riscaldamento, eppure l'esborso complessivo per gli italiani è stato di 45,2 miliardi, cioè abbiamo speso 3 miliardi e 300 milioni in più, perché per le accise e l'IVA se è tutto andato nel fisco. Il prelievo è aumentato l'aumento del prelievo è stato del 22,5% sulla benzina e del 33% sul gasolio. In questo modo lo Stato italiano ha guadagnato 3 miliardi e 600 milioni in più, con un getto complessivo di 24 miliardi e mezzo. Io dico, va bene, almeno un grazie, no? Grazie agli italiani, grazie, che è una tassa in più, 3 miliardi e mezzo in 8 mesi di benzina, aggiuntivi a quelli che già pagavamo prima. Vabbè. Vedo che già molti scrivono sulla Fiat, abbiate pazienza, diremo ampiamente quello che pensiamo e ascolteremo soprattutto quello che pensano gli altri, della valle o non della valle. Rapidamente adesso però le altre notizie in breve. 349-238-6666 per i vostri sms. La borsa negativa, meno 0,80% Milano, Parigi meno 0,70%, Francoforte meno 0,20%, Londra mezzo punto percentuale di calo, bene Ansaldo STS, di nuovo voci di una possibile cessione, più 3,30%, Mediobanca più 3,20%, A2A più 1,16%. Male media 7-2,5, Popolare Emilia Romagna -2,5, ST Microelectronics -2, Fiat -2, Mediolanum -2, Telecom Italia -2, Buzzi Unici -1,70, come Toz e Autogrill, e anche Luxottica, Monte dei Paschi, Campari e Saipem perdono l'1,5%. Il fronte europeo, Angela Merkel dice sugli aiuti, l'Italia prenderà da sola le decisioni per se vorrà o no avere gli aiuti del Fondo Salva Stati, quindi non mi esprimo sulla proposta del Presidente di Confindustria. Giorgio Squinzi aveva proposto la settimana scorsa che prima delle elezioni l'Italia chiedesse un aiuto al Fondo Salva Stati, vincolandolo a un accordo di cose da fare, in modo che qualunque sarà poi il governo che arriverà dalle elezioni, vi sarà già un accordo preso con l'Europa da rispettare. Era un modo per, se mi passa il termine, blindare, diciamo, l'azione di politica economica del governo, e quindi il rigore sui conti pubblici e quant'altro per gli anni anche successivi alle elezioni. Cioè, tu prendi un credito con l'Europa e ti vincoli con un patto, diciamo, ad onorarlo, è chiaro che il governo dopo, o il governo che arriverà a aprile, non potrà non rispettarlo. Angela Merkel dice: l'Italia decide da solo, per noi è molto importante che la BCE, la Banca Centrale Europea, sia indipendente. E ancora i confini sono molto chiari per quello che riguarda il mandato della Banca Centrale Europea. E poi una battuta anche sul possibile ritorno di Silvio Berlusconi. Angela Merkel dice: non sono assolutamente preoccupata, io sono una politica democratica e mi concentro sulla Germania, sui fatti concreti. Devo dire però una cosa che forse sorprenderà alcuni ascoltatori che pensano che io abbia un pensiero unico, diciamo, sulla politica. Mi trovo molto d'accordo con quanto ha dichiarato Berlusconi in questa sua uscita tra Venezia e Bari in tema di politica economica, non tanto sull'abolizione dell'IMU, tutti vorrebbero abolire l'IMU ma mancherebbero 20 miliardi, ma sulla parte di politica economica europea, cioè continuare la pressione sulla Germania perché la Banca Centrale Europea diventi una banca che, come la Federal Reserve o la Bank of Japan, può stampare moneta, secondo me è assolutamente giusto, e mi piacerebbe sentire anche cosa ne pensa il centro-sinistra di questo, al di là delle primarie. E anche che il fiscal compact, cioè quel patto che tutti abbiamo accettato per fare in modo che partisse il fondo di salvataggio europeo, rischia di peggiorare la crisi perché è completamente ciclico, cioè va a sottrarre risorse in un'economia che è già boccheggiante, se non sottoterra. Il fiscal compact obbliga noi a fare manovre da miliardi di euro ogni anno, perché ti obbliga, se hai il debito sopra il 60% del PIL, a tagliarlo del 3% anno praticamente in 20 anni, deve arrivare al 60 in 20 anni, vuol dire il 3% anno, vorrebbe dire che noi dovremmo tagliare di 45 miliardi all'anno il debito pubblico. È chiaro che lo riesci a fare se sei uno Stato serio in un periodo di crescita economica. Qui lo Stato non si sa quanto è serio, ma soprattutto la crescita non c'è, mi sembra veramente un'operazione pericolosissima, perché è un'operazione recessiva, e secondo me il tema politicamente c'è. Il fiscal compact così com'è trascinerà l'Europa in un'ulteriore recessione. Dall'Ilva di Taranto ci spostiamo in Italia. I nuovi dati confermano un aumento della mortalità nel periodo 2003-2008, un aumento della mortalità del 10% rispetto a quella attesa. E poi invece la vicenda dei due lavoratori che la scorsa notte erano saliti sul tetto dell'ASA di Castelmonte a Torino, si sono cosparsi il corpo di benzina. Dice uno dei due: siamo pronti a tutto. Il tavolo convocato è stato annullato per l'arrivo di due offerte, di cui una non è stata ritenuta comunque valida dalla commissione e l'altra verrà valutata domani mattina. Ecco, massima calma, mi raccomando. Io capisco l'esasperazione di chi rischia di perdere il lavoro, l'ha già perso, però mi raccomando. Prima di parlare adesso di come gli italiani abbiano cercato di spendere meno di benzina, ma in realtà abbiano pagato molto di più, per poi arrivare alla vicenda Fiat, mercati poi permettendo, è chiaro, è ancora in corso, penso, l'intervento della governatrice del Lazio Polverini. La Polverini ha detto: no, qui non c'è nessun rinvio, o prendiamo una decisione o la giunta o io mi dimetto, e quindi cade la giunta. Però ecco che leggo adesso un'agenzia su questo. Dunque, i punti salienti del pacchetto di tagli presentato dal presidente della Regione Lazio Renato Polverini sono: taglio delle commissioni consigliari, degli assessori, delle auto blu e addio alle somme per i gruppi consigliari. Su questa drastica spending review, drastica, cioè dovrebbe essere normale in un paese normale, spending review, la Polverini ha detto: o passa questa riforma oppure io rinuncio al mio mandato. Noi abbiamo altri aggiornamenti sulla vicenda del Lazio, ma non solo, perché oggi c'è anche il Senato, c'è anche la Regione Sicilia, sarà una rubrica molto lunga oggi, la rubrica sulla crisi degli altri, quelli che la crisi manco la sentono. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. Iniziamo da Bernard Arnault, l'uomo più ricco di Francia, il quarto uomo più ricco al mondo. Ha accumulato in Belgio, tramite 12 società e una fondazione, 7 persone impiegate, 4 miliardi di euro. E poi li ha portati in Belgio in questi mesi. Nei giorni scorsi il proprietario della Louis Vuitton Moët aveva chiesto la cittadinanza belga, e dicendo, insomma, facendo intendere che era un modo per sfuggire alla tassa dei ricchi annunciata da Hollande. Ognuno può fare quello che vuole, che vada in Belgio, se gli danno la cittadinanza è assolutamente libero di farlo. Faccio notare solo una cosa: gli uomini più ricchi d'America, alcuni miliardari americani, proprio durante l'estate avevano fatto notare come fosse troppo, parlo di Warren Buffett ma non solo, anche Soros e altri, come fossero troppo basse le tasse per i milionari, addirittura miliardari americani. Sono atteggiamenti leggermente diversi, e anche diverso, devo dire, il rapporto tra Stato e cittadini in America rispetto all'Italia, o in questo caso alla Francia. Ma adesso iniziamo con una bella ballata, la Maiella, prima uno stacchetto però, perché devo raccontare della strenua difesa dei dipendenti del Senato perché vengano mantenuti gli scatti automatici in busta paga eliminati per tutto il pubblico impiego 20 anni fa, e poi della malattia terribile a cavallo tra l'aviaria, la peste bubonica, Ebola, che sta colpendo i dipendenti della regione Sicilia, che hanno accumulato un record di assenza per malattia, e poi qualche spesuccia che è emersa sempre nella spartana amministrazione della regione Lazio. 349-238-6666 per i vostri sms. Allora, la nostra solidarietà non solo in questo caso ai dipendenti Fiat, ma anche ai dipendenti del Senato, che sono sul piede di guerra. Temono infatti che possono venire tolti a loro gli scatti automatici in busta paga, aboliti invece per tutti gli altri comuni dipendenti pubblici. Gli automatismi consentono in carriera perfino di quintuplicare lo stipendio e di arrivare a guadagnare 150.000 euro per un dipendente del Senato mediamente, ossia 4 volte lo stipendio in media di uno statale. Noi spendevamo, cioè noi, perché i soldi sono nostri, per stipendi e emolumenti vari 137 milioni di euro per il personale dipendente del Senato, praticamente un dipendente del Senato guadagna più di un magistrato, di un addetto alla carriera diplomatica, guadagna il triplo della media di quanto guadagna un professore universitario, il quadruplo di un medico e il quintuplo di un insegnante. Come funzionano? In 40 anni questi scatti automatici permettono a un assistente parlamentare a livello più basso di partire da 38.000 euro e di arrivare in 40 anni di lavoro a 160.000 euro. Nel caso degli stenografi, da 67.000 euro arrivano a 290.000 euro. Nel caso dei coadiuatori, da 46.000 euro a 192.000 euro. E poi i consiglieri parlamentari, la retribuzione parte da 85.000 euro, ma grazie a questi scatti automatici arriva a 417.000 euro, ossia 5 volte in più. La nostra solidarietà alla dura battaglia proletaria dei dipendenti del Senato. E adesso parliamo di altre crisi di altri. Torna con forza la regione Sicilia, anche qui siamo molto preoccupati perché ci deve essere un'epidemia strana nel palazzo della regione. Il conteggio l'hanno fatto gli uffici dell'assessorato alla funzione pubblica. Fra giugno e agosto si è diffusa una epidemia su cui sta lavorando anche i centri di ricerca internazionale, a partire dal Pasteur, perché i dipendenti della regione hanno accumulato 41.500 giorni di assenza per malattie retribuite e anche non retribuite. Già erano 38.000 giorni nel 2011, in due mesi, ma sono aumentati a 41.000 giorni. C'è un costo, c'è sempre un costo, 1 milione di euro in più, e poi calcolato anche grazie all'incremento estivo. Non è uno scandalo però per il dirigente del personale Giovanni Bologna. Noi inviamo sempre le visite fiscali e accertiamo. Forse c'è di mezzo l'età media dei dipendenti molto alta. Vabbè, allora decidiamoci, o devono andarsene perché l'età è troppo alta e vengono accompagnati alla pensione, oppure l'età è normale, la salute è buona e non si capisce perché si riescono a fare 41.500 giorni di malattia in due mesi. 41.500 giorni di malattia, c'è il tecnico che non ci crede. Tra l'altro indipendenti che sostanzialmente hanno 45 giorni di permessi retribuiti, già ce li hanno per matrimoni, motivi familiari o lutti. Faccio notare che in media uno statale ne ha 15, massimo 20 all'anno, non ne hanno 45. Tra l'altro il tema non sarà comunque affrontato durante la campagna elettorale, in cui emergono tantissimi sprechi e usi discutibili del denaro pubblico. Faccio solo notare che l'ex governatore Lombardo ha regalato 8.760 orologi con lo stemma della regione o libri per 8.750 euro di orologi, scusatemi, non orologi, ma 8.760 euro in orologi con lo stemma della regione, oppure libri per 50.000 euro. Comprese le 100 copie fondamentali che stanno raggiungendo prezzi incredibili sulla rete, 100 copie di Perli, Codi e Ubea, una vita da amministratore. Su Amazon vanno a ruba, io ve lo posso assicurare, Perli, Codi e Ubea, una vita da amministratore, 100 copie. Poi 500 copie del libro Giovanni Gentile, 10.000 euro, 10.300 euro per l'acquisto del secondo lotto della guida La Sicilia nella storia. Sì, ci entra sicuramente nella storia in questo modo la Sicilia. 6 milioni di euro per restaurare le chiese siciliane, e va bene. E poi 600 euro per acquistare le bandiere della Libia e della Cina. Ma ve le davamo noi. 12 congressi e convegni su argomenti di tutela della salute organizzati nei primi 5 mesi del 2012, spesi circa 30.000 euro. E adesso chiudiamo in bellezza, poi parliamo di cose serie. Oddio, sono molto serie anche queste. Ma parliamo della Fiat. In bellezza l'ultima chicca sulla regione Lazio, in cui e dove perfino la governatrice Polverini ha detto basta, non se ne può più, o tagliate tutto, spending review, oppure io mi dimetto. Piacere, Luigi delle bicocche, sotto il sole faccio il muratore, mi spacco le nocche, sono un eroe perché lotto tutte le ore, sono un eroe perché combatto per la pensione, sono un eroe perché proteggo i miei cari dalle mani dei sicari, dei cravattari. Vivo il mestiere, sono un eroe, straordinario tutte le sere, sono un eroe, e te lo faccio vedere, ti mostrerò cosa so fare col mio superpotere, sono un eroe. Allora, mentre appunto la governatrice Polverini ha appena detto che o passa questo piano di tagli o lei si dimette, Noi già giovedì abbiamo raccontato quanto poi era anche su tutti i giornali le spese pazze, i bonifici di Franco Fiorito, 753.000 euro si è fatto accreditare nostri. Devo dire, devo anche ringraziare il Corriere della Sera che con vari articoli ha denunciato per primo questa cosa, ma anche tutti i soldi erogati per Francesco Battistoni o da Francesco Battistoni, l'associazione New Tuscia, il nuovo Corriere Viterbese, Tuscia Web, Funamboli On Air, Yamma SRL, Associazione Culturale IPEN, Media Live, due noleggi di auto, e poi la Veronica Cappellaro che ha preso il più importante e costoso fotografo di Roma, 1000 euro per un paio di foto. Anche qui Radio 24 è in grado di essere concorrenziale su questo, venite, ve le facciamo alla metà. E poi le ricevute di bar, ristoranti, Pasqualino al Colosseo, 17.000 euro, bar Martini, cena sociale del gruppo BDL, 8.800 euro, ma che cena sociale è? Di sociale non c'è niente sta cena. E poi la vicenda di De Romanis che affitta addirittura il set dell'antica Roma Cinecittà per 57.000 euro con donne vestite poco, con peplum così che ricordano i vecchi peplum movie italiani. Ma Giancarlo Miele, 15.000 euro sempre del PDL, Innovazione Territorio, 8.500 euro la GECO SRL. C'è però anche, non è che fosse solo il PDL, ha la grande parte in questo, c'è anche Esterino Montino, capogruppo del PD alla Regione Lazio, capogruppo del PD. Allora, durante la festa natalizie ha giustificato dunque i 740.000 euro spesi in manifesti e i 100.000 euro spesi in convegni e cene, dicendo che era l'attività politica. Ma la cosa più bella è che ha speso 4.500 euro in un'enoteca. No, adesso io voglio un applauso per questa cosa perché non ne esco più, ne esco pazzo. 4.500 euro in un'enoteca, e come li ha giustificati? A Natale abbiamo fatto regali ai bambini senza reddito. Allora, due cose, Montino. A, l'EDA denuncia, i minori sotto i 16 anni non possono bere alcol. B, ma secondo lei uno senza reddito perché dovrebbe bere l'alcol? Per così, per dimenticare. 4.500 euro in un'enoteca per regalare bottiglie, cosa compri in un'enoteca? Il latte a bambini senza reddito è un atto di solidarietà? No, è un atto criminale. Piacere, Luigi delle Bicocche, sotto il sole faccio il muratore, mi spacco le nocche, sono un eroe, perché lotto tutte le ore, sono un eroe. No, adesso scherziamo, tanto lo sappiamo che quei 4.500 euro, vero Esterino Montino, non li avrà mica dati ai bambini, in vino, le avrà dati in altro modo, magari ai genitori dei bambini di famiglie in difficoltà. Fatti una bella boccia che tutto sembra più bello. Ma è una strategia anche questa per uscire dalla crisi. Speriamo che almeno fosse vino italiano, va? Allora io dico, governatrice Polverini, faccia qualcosa perché non è ammissibile. Perché devono essere pagati i consiglieri della regione con soldi pubblici che tra l'altro amministrano in questo modo? Non devono averli e basta. C'è un'intervista incredibile a questo mito, com'è che lo chiamavano, Batman, perché poi hanno pure dei soprannomi, a Franco Fiorito, che dice: io avevo bisogno di due auto perché avevo sì l'auto diciamo quella istituzionale, ma ho dovuto anche prendere un SUV. Allora io dico una cosa: non solo non ha bisogno di due auto, ma neanche della prima. Ma perché deve avere il consigliere del PDL l'auto a disposizione? Avrà la sua auto, se vuole si paga un autista, se no prende il tram e ci si attacca in alcuni casi. Sono un eroe. Chiudiamo così, poi torno calmo con una vicenda che, mentre venivano spesi questi soldi dai consiglieri del PDL, e Renata Polverini non ne sapeva nulla, e anche del PD, noi ci occupavamo in quei mesi, ossia a fine 2011, della vicenda dell'ospedale Santa Lucia, dove ci sono 700 dipendenti e infermieri che assistono bambini con problemi di carattere neuromotorio per la ricerca, che provengono da tutta Italia, non solo bambini. Non si riusciva a pagare gli stipendi, la Regione Lazio aveva sottoscritto alcuni impegni di pagare in due rate gli stipendi arretrati e gli acconti mensili. Hanno dovuto scioperare e minacciare il blocco delle attività per essere pagati, no? Allora, vogliamo essere un paese serio? So che dirò una cosa molto populista, tanto ormai butta così. Io direi che sostanzialmente i consiglieri della Regione Lazio del PDL, ma anche quelli del PD che ho appena citato, se vogliono rendere più credibile la politica, prendono, vanno a Santa Lucia a piedi o in autobus, non me ne frega nulla, e iniziano a fare attività di volontariato. Ok? Allora a quel punto noi gli applaudiamo. Parlo di Franco Fiorito, parlo di Francesco Battistoni, di Veronica Cappellaro, di Carlo De Romanis, di Giancarlo Miele, di Andrea Bernaudo e di Esterino Montino. Li aspettiamo, se lo faranno saremo qui a raccontarli. Il populismo non me ne frega nulla. ...17:39 di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, 349-238-6666 per i vostri sms. Adesso basta con basta per oggi con gli sprechi, ma non sono nemmeno sprechi, sono proprio ladrocini dei consiglieri PDL alla Regione Lazio. C'è chi scrive: ma non ha paura che la querelino? Ma magari mi querelassero, andiamo a vedere. Detto questo, torniamo a occuparci di cose ancora più serie, ossia di la gelata che è arrivata dalle dichiarazioni di Marchionne la settimana scorsa, la reazione molto forte di Della Valle. Questo sarà l'argomento per il resto della puntata. Prima di tutto però la borsa, 349-238-6666 per i vostri sms. Borse oggi negative, non tantissimo. È vero che ripartivano le vendite allo scoperto, bloccate dalla Consob a suo tempo, meno 0,90% Milano, meno 0,80% Parigi, meno 0,11% Francoforte, meno 0,40% Londra. Tra i titoli Ansaldo STS più 3%, Mediobanca più 2,70%, A2A più 1%. E ancora Finmeccanica più 0,6%, Assorin più 0,5%. Chi va male invece: Popolare Emilia Romagna meno 2,50%, ST Microelectronics meno 2,20% come Mediaset e Telecom Italia. Il 2% lo perde Autogrill, ma anche Fiat e Monte dei Paschi. L'1,80% Tods e Buzzi Unicem, l'1,60% sia Luxottica che Campari che Saipem. Come sempre il collegamento lo facciamo con Radio Corriere sulle 24 ore. Vi do anche il dato sull'euro, avete ragione però. L'euro sul dollaro è in netto rafforzamento anche oggi a 1,31,19. Guido Maurino, Radio Corriere sulle 24 ore, buonasera. Buonasera. Ti farei fare un commento complessivo perché poi abbiamo in attesa Epifani e poi l'ex ministro Romani. Più che altro Mediaset sulla vicenda La 7 e Ansaldo STS con Mediobanca. Sì, i listini, come ricordavi anche tu, oggi si sono presi un pochettino una pausa dopo che avevano corso per almeno 7 sedute, in parte sulle mosse della BCE e della Fed, e per cui oggi era in qualche modo anche normale attendersi un pochettino di vendite. Per quello che riguarda i singoli titoli, sulla vicenda della 7, Tmedia oggi ha guadagnato il 13,51%, ricordiamo sono arrivate 15 manifestazioni di interesse per rilevare quello che è un pochettino l'asset principale di Tmedia, che è l'emittente televisiva La 7. Fra queste c'è anche Mediaset, che in borsa invece è andata male, meno 2,2%, perché per eventualmente acquistare La 7, Mediaset, che ha già un indebitamento abbastanza alto, 1,8 miliardi, si troverebbe un pochettino davanti a un bivio: o un aumento di capitale o rinunciare ai dividendi per un pochettino di anni. Per cui insomma il titolo ne ha risentito. Sì, vai avanti, prego. Per quello che riguarda invece Ansaldo, oggi più 3,07% in borsa. Venerdì c'è stato un incontro con gli analisti, la società avrebbe dato alcune indicazioni su una commessa che potrebbe arrivare a breve dal Qatar. Si tratta di alcune centinaia di milioni di euro di lavori che non erano ancora stati preventivati, e quindi ecco, su questa notizia il titolo oggi è salito. Grazie. Io raccogliendo anche il suggerimento di un ascoltatore che dice: ma quando la borsa non ha molti spunti la fate più breve? Sì, la facciamo più breve, la facciamo più lunga quando invece di spunti ce ne sono tanti. Oggi non c'è obiettivamente molto, va bene anche così, non si deve sempre ballare e vivere giornate di passione. Do comunque i migliori e i peggiori. Telecom Italia Media, chiaramente sulle voci, sulle ipotesi, interessamento di Mediaset, più 13,5%, Milano Assicurazioni sulle risparmio non convertibili, più 12,5%, Unipol sulle privilegio, più 10,50%, Sopaf, più 10,14%, e questi migliori. I peggiori: Sintesi, meno 12,20%, Digital Brothers meno 9,20 e poi Gabetti meno 4,90. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, apriamo dunque un lungo approfondimento sulla vicenda Fiat, le dichiarazioni di Sergio Marchionne su tutti i giornali che ha messo in discussione gli investimenti da 20 miliardi di euro previsti dal piano Fabbrica Italia. 349-238-6666 per i vostri sms. E le reazioni le avete viste nel corso di questo fine settimana, oltre a quella che ha fatto più clamore, quella di Diego Della Valle, bollata come assolutamente inopportuna dall'amico, ancora immaginiamo, Luca Cordero di Montezemolo, tra l'altro socio nei treni NTV Italia, nel treno Italo, ma non solo quello, anche l'ex numero uno della Fiat, Cesare Romiti, che ha detto la Fiat manca di progetti, la colpa principale di Marchionne perché chi decide è lui, in questi anni gli azionisti hanno dato già abbastanza soldi all'amministratore delegato, bisognerebbe calcolare il valore delle tecnologie trasferite da Fiat a Chrysler. Tecnologie e saperi, ha continuato Romiti, accumulati in 100 anni di storia della Fiat. Lui, Marchionne, voleva andare in America e adesso c'è riuscito. Romano Prodi, insostenibile perdere il settore dell'auto. E poi oggi, così aggiorniamo le ultime dichiarazioni, mentre il ministro Fornero ha smentito di aver lasciato l'intervista a Repubblica in cui diceva Marchionne ci dica come cambia la Fabbrica Italia, la Fiat è una multinazionale ma è anche una grande industria italiana, il ministro Fornero ha detto non ho mai rilasciato questa intervista, non è mia intenzione rilasciare una dichiarazione o un'intervista sul tema Fiat, sul quale il governo nel suo insieme mantiene un'attenzione costante. C'è invece la dichiarazione ufficiale del presidente degli industriali, ossia Giorgio Squinzi, a margine dell'assemblea annuale di Un'Industria Bologna: non conosco il problema in dettaglio, ma un grande paese industriale come l'Italia non può non avere un'industria automobilistica forte. Allora ricordiamo il progetto Fabbrica Italia, che non è mai stato fatto partire in maniera ufficiale, però era un progetto molto annunciato anche e soprattutto quando c'era in corso la trattativa sui nuovi contratti di lavoro a Pomigliano. In sostanza il ragionamento era fateci fare dei contratti più flessibili, più che vengono più incontro alle esigenze della Fiat, dove la produttività nel caso di Pomigliano soprattutto era molto bassa, e noi investiremo nel paese Italia con il progetto Fabbrica Italia. 20 miliardi di investimenti per portare la produzione italiana dalle attuali 650.000 vetture a 1.400.000 vetture, di cui 1 milione destinati all'export. Per ora gli unici investimenti, a dire il vero, che sono stati effettuati sono stati stanziati proprio a Pomigliano d'Arco, dove verrà prodotta la nuova Panda, 800 milioni di euro. Però insomma, il progetto nel corso degli anni era un progetto da 20 miliardi di euro. Faccio anche notare che lo stipendio netto di un operaio della catena di montaggio della Fiat è di 1.200 euro, l'operaio Volkswagen, ma sappiamo che la Germania ha tutto un altro tipo di produttività e di remunerazione, di 1.950 euro. Qualcuno ricorderà che c'era anche uno spot che girava nelle televisioni nel 2010, lo spot Fiat per il piano Fabbrica Italia, c'era un padre che parlava al neonato che aveva in braccio. Ok, dato che non vuoi dormire, adesso ti racconto di questo piano industriale. Dici che cosa interessa a te? E niente, almeno adesso. Ma in 5 anni raddoppia la produzione di veicoli in Italia e aumenta l'esportazione. Anche in America. Raddoppia la produzione, raddoppiano le possibilità. Anche per me. E allora mi chiederai, io cosa faccio? Non lo so. Per esempio, posso comprare un'auto italiana. Il colore lo scegli tu, magari, eh? Insomma, il bambino è cresciuto, il neonato è cresciuto, perché ormai ha 2 anni, è ancora un neonato. Temo che... se va avanti così convenisse restare neonato. Al di là della battuta, insomma, qui la situazione è serissima. Personalmente ritengo che la linea espressa da più parti, e devo dire, attenzione, la Fiat è un'impresa privata, sceglie di produrre dove vuole, ci mancherebbe, però a fronte di garanzie date non può, diciamo, non chiarire perlomeno quale sia definitivamente la scelta sugli investimenti. Cioè, un paese non può restare in ballo e sapere se un anno la Fiat farà il progetto Fabbrica Italia, poi l'anno dopo no, forse mi sposto più in America o c'è anche la Serbia. Ringrazio intanto per averci raggiunto in collegamento chi al tempo dialogava come segretario generale della CGIL proprio con la Fiat, ed è l'ex segretario Guglielmo Epifani. Buonasera, segretario. Buonasera a voi. Attualmente lei è presidente della Fondazione Bruno Trentin, lei restò in carica fino al novembre del 2010. Allora, prima domanda, è vero che già nel 2010 la Fiat disse questo è un progetto, non è che metteremo realmente, non è che sarà certa la destinazione di questi soldi, oppure quando lei incontrava i vertici Fiat il progetto Fabbrica Italia veniva dato per scontato, per definitivo, se fossero passati gli nuovi accordi nelle relazioni industriali? Diciamo intanto che ci sono due fasi nella storia recente della Fiat. La prima, quella che vede la Fiat sull'orlo del fallimento, della bancarotta, viene aiutata da un prestito delle banche e oggi si scopre anche con una sollecitazione positiva dell'allora governatore della Banca d'Italia, e questo consente a Marchionne, che si era appena insediato, di prendere la Fiat che stava sul baratro e di tentare di salvarla. Quindi diciamo c'è una tappa 1, che era quella in cui Marchionne lavora a questo progetto di salvataggio della Fiat, ha buoni rapporti con le organizzazioni sindacali tutte, in modo particolare con la FIOM e anche con la CGIL, e quindi da questo punto di vista bisogna dare storicamente a Marchionne il merito di aver salvato la Fiat dal baratro. Poi c'è la fase 2, ed è quella che stiamo vivendo e della quale non si riesce a venire a capo, perché dopo aver passato la fase dura delle difficoltà, Marchionne comincia a predisporre degli elementi di piano in più riprese, presentati quasi sempre a Palazzo Chigi, a tutte le organizzazioni sindacali e al governo, nel quale delinea le tappe di un possibile progetto di rilancio. Faceva parte di questo progetto di rilancio la riorganizzazione di Pomigliano d'Arco, che era uno stabilimento che aveva problemi di produttività, fino ad arrivare alla presentazione di quello che poi è stato chiamato, che lo chiamò così lo stesso Marchionne, il progetto di Fabbrica Italia, questi investimenti, il numero di modelli e l'obiettivo assai alto di produrre in Italia 1.400.000 automobili l'anno. Che cosa avviene? Al di là, diciamo, del formalismo, avviene che nel momento in cui Marchionne lancia il suo piano, comincia poi gradatamente a fare delle cose che mettono in discussione quel piano. Fiat incrocia Chrysler, perfetto, producono assieme 4 milioni di automobili, Marchionne pensa di prendere anche la Opel, gli viene impedito, il suo obiettivo dichiarato allora e oggi è di avere un gruppo mondiale con almeno 6 milioni di vetture prodotte, perché è considerato un limite giusto per competere con i grandi gruppi automobilistici mondiali, solo che da quel momento gli investimenti che doveva fare sul pezzo italiano si sono sostanzialmente fermati. Ecco. Tant'è vero che oggi la Fiat produce sempre con Chrysler 4 milioni di autovetture, grosso modo, solo che prima erano metà e metà, adesso invece si sta spostando, produce sempre di più Chrysler. Sì. E sempre di meno. Mi dica una cosa però, se lei fosse ancora segretario della CGIL, farebbe quello che oggi ha fatto il governo francese, cioè il ministro francese delle finanze, Pierre Moscovici, ha detto a Peugeot, attenzione, 8.000 tagli di posti di lavoro sono troppi. Ora qui non stiamo parlando di tagli di posti di lavoro, ma insomma in Francia il governo interviene in maniera molto netta su un'azienda come Peugeot. Lei, se fosse ancora segretario CGIL, chiederebbe al governo di intervenire in maniera... Non c'è dubbio, ma guardi che il governo francese ha fatto ancora un'altra cosa quando c'era Sarkozy. Disse a Renault addirittura di chiudere una fabbrica, credo in Romania, e per salvare l'impresa in Francia. Cioè, gli altri governi, compresa la Germania ai tempi della Opel, si sono mossi per difendere la produzione nazionale loro di autovetture. E secondo lei perché il governo esita su questo? E non si capisce perché lo ha fatto alla fine il governo Berlusconi, lo fa oggi il governo presieduto da Monti. Forse spera che passando il tempo questo aiuti a dirimere la cortina, ma il problema è che il tempo che passa gioca contro gli obiettivi di quel piano, perché il limite vero dell'azione di Marchionne è stato quello di non puntare, oltre che sul mercato americano, sul mercato sudamericano, sul mercato italiano ed europeo. Siamo in collegamento con l'ex segretario della CGIL Guglielmo Epifani, che appunto nel 2010 trattò con i vertici Fiat, anno il 2010 in cui Fiat presentò il progetto Fabbrica Italia, che adesso viene rimesso in discussione, 20 miliardi di investimenti previsti nel corso degli anni. Allora, ribadiamo, Fiat è un gruppo privato e quindi può fare quello che vuole, però deve anche chiarire una volta per tutto quello che vuole fare. Proviamo però, Epifani, a metterci al posto di Marchionne. Insomma, secondo Marchionne il mercato europeo non c'è, la crescita è bassissima in Italia, non ci sono i consumi, quindi non si comprano neanche automobili e i consumi sono ai livelli più bassi dal dopoguerra. Decide di puntare tutto sull'America e su fabbriche non italiane, diciamo. A questo punto lei ritiene che abbia ragione Romiti, l'ex numero uno della Fiat, a dire che ormai Marchionne ce l'ha fatta a trasferire in America la Fiat? E che cosa pensa che dovrebbe fare il governo operativamente, concretamente? Ma guardi, naturalmente lo so anch'io che stiamo parlando di un gruppo privato. No, ma dico, ma è d'accordo con Romiti lei intanto? Beh certo, ma mica da oggi abbiamo detto che c'era il rischio che Marchionne portasse il cuore, il cervello, la strategia e il cuore dell'azienda a Detroit, ma non lo diciamo oggi, l'avevamo detto già 2 anni fa. Il problema è che allora, 2 anni fa, nessuno ci ha voluto dar retta che questa era la tendenza. Dopodiché è vero che c'è una crisi di vendite in Europa, ma mi può spiegare perché almeno la nuova appunto non si può fare, visto che tra gli investimenti annunciati e il prodotto finale, cioè la nuova appunto, passano un anno? Cioè Marchionne scommette che neanche fra 1 anno o 2 anni il mercato riprende? Un imprenditore deve anche scommettere sulla ripresa del mercato. Se lui ragiona solo in termini che aspetto che il mercato cresca e poi vedo, arriva fuori tempo massimo, perché gli altri intanto gli investimenti e i nuovi modelli li tirano fuori. Per cui lei è d'accordo con Romiti e dall'altro dice che bisogna anche scommettere che il mercato prima o poi ripartirà. Ma mi dica però, Marchionne, a ridefinire un piano credibile. E secondo me la prima condizione della credibilità di un piano è che almeno l'investimento sull'appunto, che ha un valore molto forte nella composizione delle automobili Fiat, possa uscire. D'altra parte abbiamo visto anche la riprova. Se lei prende una macchina Chrysler e mette sopra il logo Fiat, non è che si vende in Italia o in Europa, perché l'Europa ha una tipologia di vetture un po' diversa da quella americana. Per questo dicevo c'è una confusione molto forte. Il mercato è globale, ma i mercati sono anche mercati particolari. Sì, e vede perché è importante l'Europa, perché è vero che c'è una competizione difficile, ma il cuore della sfida sull'innovazione oggi è esattamente l'Europa. Ecco, a questo non è gli Stati Uniti e non è l'Asia. A questo proposito, i grandi competitori li abbiamo tutti qui, è qui che si vince la sfida della qualità nel futuro. A questo proposito, Romiti dice anche, insomma, in questi anni Fiat ha trasferito a Chrysler tecnologie e saperi accumulati in 100 anni di storia Fiat. È un'accusa che arriva anche dal, oltre che da Romiti, anche da alcune rappresentanti sindacali di Mirafiori. Lei ritiene che vi sia stato uno scambio, che è una cosa, o invece un trasferimento di tecnologia a vantaggio Chrysler per poi scaricare la Fiat, diciamo brutalmente? Ma certo, questo che finisce con un ridimensionamento secco del progetto, per cui Fiat lascia 1 o 2 stabilimenti in Italia. È chiaro che ha pagato con tecnologia Chrysler l'aiuto del presidente Obama per salvare la Chrysler, la Fiat salva la Chrysler e la Fiat muore. Questo è impensabile, ma questo non è giusto, perché è vero che è un gruppo privato, ma questo paese ha dato alla Fiat in 100 anni di storia molto. E anche quando adesso il dilemma è chiudo gli stabilimenti o metto in cassa integrazione, è evidente che qui qualcuno deve pagare. È chiaro che c'è una cassa integrazione in deroga da sistemare, è chiaro che ci sono ammortizzatori sociali, cioè l'esborso del sostegno pubblico è fortissimo, non può per questo essere deresponsabilizzata da una vocazione anche italiana alla fine. Quindi, secondo lei, per concludere, Epifani, quali sono gli strumenti che in mano un governo tecnico, ma con maggioranza parlamentare, politica, ci mancherebbe, cioè, oltre a fare un po' di moral suasion, ma mettiamo che Marchionne dica: guardate, no, secondo i miei calcoli, io per vivere e sopravvivere posso solo andare nei luoghi dove la produzione è in aumento e questa non è l'Europa. Il governo che può fare? Sì, ma vede, la produzione in aumento oggi non è l'Europa, ma fra un anno riprende. No, ho capito, ma mettiamo che Marchionne... Il governo deve spingere con le armi, gli strumenti che ha, Marchionne, a impegnarsi in una ridefinizione di progetto che riguardi l'Italia. Ma intanto lo deve fare, cioè non basta una telefonata, ci vuole un atto pubblico, ci vuole una convocazione, ci vuole una sede nella quale il governo solennemente chieda a Marchionne di ripensare la sua strategia di disimpegno. Ma fate esplicitamente, lei ha visto tutto qualcosa di questo in questo anno e mezzo? Ma perché un governo tecnico dovrebbe aver paura della Fiat? Cioè, il governo politico poteva dire: vabbè, la Fiat muove voti, alla stampa di Torino. Ma non è così, perché vede, anche la Peugeot, alla quale il governo francese chiede, non è che ha strumenti. Però è chiaro che l'autorevolezza di un governo che pone una questione di politica industriale non può trovare la Fiat, secondo me, insensibile. Poi può anche decidere di non farlo, ma deve essere chiara a quel punto la responsabilità che si assume con l'intera collettività nazionale. Se noi non mettiamo la Fiat di fronte a questo dilemma, se aspettiamo, se lasciamo crescere, arriviamo a un punto in cui alla fine lasciamo due stabilimenti in Italia, il cuore produttivo e della ricerca se ne va negli Stati Uniti d'America, e che cosa ci resta? Non abbiamo altri produttori internazionali in casa, non li abbiamo neanche mai cercati seriamente, restiamo un paese senza l'industria che ancora oggi ha il più alto rapporto per soldi investiti di composizione di mano d'opera, di valore del lavoro. Ecco, per concludere veramente, però torna alla domanda che le facevo all'inizio, mi scusi Epifani, ma lei con l'esperienza che ha si sarà fatto data una risposta, oltre che farsi una domanda, sul perché il governo non abbia convocato subito la Fiat? Un governo, ripeto, tecnico, che non ha paura, non deve temere il peso politico. Io mi sono anche domandato: ma perché il presidente Monti usò quell'espressione, il gruppo Fiat è libero di fare quello che vuole? Non è questa in discussione, no? Il gruppo Fiat può essere libero di fare quello che vuole, ma il governo italiano ha il dovere di dire come la pensa. Cioè, non si possono confondere il ruolo del governo e i ruoli di un'impresa privata. Il governo deve avere il suo punto di vista e va fatto pesare. Se il governo ragiona come ragiona Marchionne, e allora si spiega perché non ci sono state convocazioni e non c'è stato nulla. Grazie prego, all'ex segretario generale della CGIL Guglielmo Epifani. Ok, dato che non vuoi dormire, adesso ti racconto di questo piano industriale. Dici che cosa interessa a te? E niente, almeno adesso. Ma in 5 anni raddoppia la produzione di veicoli in Italia e aumenta l'esportazione. Anche in America. Raddoppia la produzione, raddoppiano le possibilità. Anche per me. E allora mi chiederai, io cosa faccio? Non lo so. Per esempio, posso comprare un'auto italiana. Il colore lo scegli tu, magari, eh? E l'abbiamo riproposto, lo spot pubblicitario che andò in onda appunto nel 2010 per illustrare il progetto Fabbrica Italia. Nel salutare appunto Guglielmo Epifani, ringrazio per averci aggiunto in collegamento chi sempre nel 2010 rappresentava il governo, essendo allora ministro allo sviluppo economico, Paolo Romani. Onorevole, buonasera. Buonasera a voi. Ha sentito Epifani nella prima parte della prima ora, anche detto insomma il governo Monti fa come fece il governo Berlusconi, cioè non ha il coraggio di fare quello che fa il governo francese, che dice la Peugeot: no, tu non puoi fare 8.000 tagli, o la Renault chiudi gli stabilimenti all'estero e tieni aperti quelli in Italia. Vorrei un primo commento su questo e poi veniamo alla sua valutazione invece sulla vicenda. Ho sentito Epifani nella parte finale del collegamento. No, non è vero quello che dice Epifani, perché io ho incontrato Marchionne 3 volte, ufficialmente, non diciamo ufficiosamente, e l'ho anche portato dall'allora Presidente del Consiglio Berlusconi, con il quale lui prese un impegno preciso. Io, proprio perché volevo essere preciso con voi, mi sono andato a riprendere un comunicato che allora fece la Fiat. Lo leggo velocemente nella parte principale. Dice: l'obiettivo di Fabbrica Italia, diceva la Fiat, è quello di incrementare gradualmente i volumi di produzione di autovetture nei nostri impianti italiani fino al 2014, quando raggiungeremo 1.400.000 unità, più del doppio delle 650.000 unità prodotte adesso. Non solo, avrebbero poi aggiunto altre 250.000 unità per un totale di 1.650.000. Tenga conto che oggi la Fiat ne produce 650. Quindi allora ha preso un impegno preciso a Palazzo Chigi, col Presidente del Consiglio in mia presenza, rispetto agli investimenti che allora furono calcolati in 20 miliardi. Non si disse allora come, dove, quando, ma c'era un obiettivo preciso del 1.650.000 fra vetture e mezzi, diciamo, di leggeri commerciali. E quindi, per quanto ci riguarda, l'impegno c'era e fu forte, ma si coniò in quell'occasione anche quello slogan: il cuore in Italia e la testa nel mondo, e la definizione di Fiat come grande multinazionale italiana. E quindi, quando si ha il cuore in un paese, soprattutto quando si è una multinazionale italiana, si presuppone, si suppone, ma si anche poi la conferma i numeri, che si abbia voglia di investire in quel paese. Quindi lei dice, attenzione, perché Marchionne, in mia presenza, quando ero ministro dello sviluppo economico, prese di fronte all'allora presidente del Consiglio Berlusconi un impegno preciso, articolato, sì, nel documento che lei ci ha letto, sia sul numero di auto da sfornare, sia da qua, il livello di investimento. Sia a livello di... Esatto. Allora, sia a livello di investimento. Perfetto, adesso abbiamo un minuto di pubblicità e traffico soprattutto, e poi vorrei capire qual è il suo giudizio invece sull'azione o la non azione del governo attuale, che voi come PDL comunque sostenete in Parlamento, e se lei si è dato una risposta sul perché Marchionne, rischiando appunto un'impopolarità così alta a nemmeno 2 anni di distanza, cambi già dicendo attenzione, potrebbe non partire il progetto Fabbrica Italia o essere così ridimensionato da essere un'altra cosa. Di nuovo in diretta per l'ultima parte di Focus Economia con Sebastiano Barisoni. Siamo in collegamento adesso con l'ex ministro dello sviluppo economico Paolo Romani. Alcuni ci chiedono perché avete invitato Romani ed Epifani. Perché erano uno il segretario della CGIL, ovviamente Epifani, l'altro ministro dello sviluppo economico, ovviamente Paolo Romani, quando Marchionne presentò il progetto Fabbrica Italia. Allora, onorevole, lei ci ha appena chiarito come di fronte a lei Marchionne presentò nel dettaglio il progetto di investimenti, auto da produrre, investimenti da fare, occupazione da mantenere all'allora Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, niente meno che a Palazzo Chigi, quindi nel massimo della sua ufficialità e formalità. Le chiedo, dovrebbe fare il governo Monti come ha fatto il governo Hollande, visto oggi la posizione del Ministro delle Finanze Moscovici, che ha detto no alla Peugeot, rivedi il tuo piano, cioè dovrebbe intervenire a gamba tesa, convocare subito Marchionne? A mio avviso sì, tenuto conto del fatto che la filiera dell'automotive, vi do alcuni dati, essendo voi un giornale economico che penso possano interessarvi, forse sono noti, ma forse vale la pena di ricordarli. L'automotive, la filiera in Italia, rappresenta il 10,5% del PIL, composto dal 2% che è la produzione diretta di Fiat Auto, il 4% dall'indotto che la Fiat Auto ha nel nostro paese, aziende che producono ovviamente sempre nel settore, e un altro 4,5% fatto da concessionari riparatori. Parliamo di qualcosa come 3.000 aziende, 200.000 addetti diretti e 1 milione di addetti indiretti, cioè una ricchezza straordinaria, il 10% del PIL. Vuole che il governo rispetto a una filiera di questo tipo non si debba, non si possa muovere? Deve muoversi, deve convocare Marchionne, deve convocare la Fiat e deve capire che cosa è accaduto rispetto agli impegni presi col governo. Io sono sempre stato dell'idea che in un paese ci sia un sistema di paese che comunque prescinda dalle differenze delle diverse maggioranze. C'è continuità degli impegni che si prendono, c'è continuità degli impegni che si devono mantenere. E quindi la Fiat deve dire al governo italiano, e il governo italiano non so se a gamba tesa, ma sicuramente con determinazione, o il ministro interessato, meglio il Presidente del Consiglio, visto che si è permesso di dire quella battuta infelice che ricordava prima Epifani, deve chiamare Fiat e dire: cari signori, che cosa è successo? Cioè, secondo lei la battuta di Mario Monti su lasciamo la Fiat fare quello che vuole è una battuta infelice? Sì, è una battuta infelice. Lei mi insegna che nella quinta potenza industriale del mondo, poi andiamo a vedere meglio la storia, ma sicuramente nella seconda potenza manufatturiera dell'Europa, dopo la Germania c'è l'Italia, lo sviluppo e la crescita di un paese, soprattutto della filiera industriale, che in Italia è pari al 24% del PIL, poco meno di quello tedesco e sicuramente molto di più di Francia e Gran Bretagna, è fatto dalle strategie economiche del governo, ma in sinergia e in sintonia con quello che fanno anche le poche grandi imprese che abbiamo la fortuna di avere su questo paese. fra le quali sicuramente Fiat, voglio ricordare Eni, voglio ricordare Enel, voglio ricordare Finmeccanica. È inammissibile che nel momento in cui si parla di crescita, che è coniugata con una crisi terribile che dipende anche dal fatto che non ci sia crescita, le grandi imprese di questo paese non siano in sintonia col governo nello sviluppo. Sì, Romani, è più facile per Eni, Enel e Finmeccanica perché sono partecipate dal tesoro, Fiat è tutta privata, però le volevo chiedere una cosa. Mi perdoni, sì, certo che sono parte, ma non sono di proprietà dello Stato, sono proprietà del mercato, come lei pensa. Sì, assolutamente. Quindi, diciamo che rispondono a logiche di mercato anche loro, e devo dire che non sempre Eni ed Enel corrispondono alle strategie del governo o della crescita del paese, quindi è obbligatorio che il governo intervenga anche su Fiat. Secondo lei perché non l'ha fatto? Perché il governo tecnico non ha la sensibilità politica che deve avere in certi passaggi. Noi eravamo politici con tutto quello che ci è stato detto, ma dietro le sollecitazioni che dentro di noi sentivamo corrette e giuste, abbiamo chiamato Fiat, abbiamo parlato con loro, abbiamo anche sentito i loro problemi, perché non è che Fiat non abbia problemi in questo paese, ha avuto problemi, l'abbiamo anche accompagnata per un certo percorso alla soluzione dei problemi, e Fiat ci ha riconosciuto di aver partecipato alla soluzione dei problemi, ma il disinteresse e la autoesclusione, la convenzio ad autoescludendum che questo governo tecnico ha fatto nei confronti di questo problema, io la dichiaro inammissibile. Quindi lei dice il governo non convoca la Fiat perché non ha la sensibilità di quello che sta capitando, del peso della io Fiat. Io ho l'impressione che questo governo abbia tanti meriti. Il presidente Monti sicuramente ha degli straordinari meriti, ho l'impressione che alcuni ministri abbiano qualche merito in meno. Non posso sentire un ministro che mi dice io ho telefonato e aspetto che il mio telefono squilli, perché francamente mi sembra poco adatto un ministro, addirittura un altro ministro che se ne dovrebbe invece occupare direttamente, che non se ne occupa. Ma a chi si riferisce? Al ministro Fornero, al ministro Passera? Esattamente. Su questo vediamo l'ultima possibilità. Allora, Sergio Marchionne dice: attenzione, io devo andare a produrre laddove c'è mercato, la stessa domanda che faceva Epifani, e decide di smontare il progetto Fabbrica Italia. Secondo lei, fermo restando che l'indotto non è un indotto problema, solo Fiat, in Italia si producono 650.000 autovetture Fiat, ma se ne comprano di automobili 2 milioni e mezzo. Allora il problema, e qui mi pare che Epifani centrasse il problema, c'è un mercato globale, c'è una soglia critica che si è sempre detto forse per un grande gruppo automobilistico di 6 milioni e mezzo di autovetture complessivamente prodotte, ma ci sono poi mercati particolari. Il mercato italiano è un mercato che da sempre è stato anche diverso rispetto al solito, ma è mai possibile che si comprano piccole auto della Peugeot, piccole auto della Citroën, piccole auto di alcune marche tedesche, e non si comprino le piccole auto Fiat? Ho l'impressione che anche nello scambio fra Chrysler e Fiat non sembra sia andato tutto per il verso giusto, ma per l'amor di Dio, nell'imprenditoria non tutto va sempre nel verso giusto. Probabilmente il successo che si attendevano dalla 500 in America non c'è stato, perché è talmente in disintonia col mercato americano che gli americani non hanno capito la 500, come può darsi che la Fremont o la Jeep portata in Italia non incontri lo stesso quindi valore. se ci foste stati voi al governo ancora, lei avrebbe convocato Marchionne da Berlusconi? A mio avviso sì. Quando Marchionne, e secondo lei un governo politico potrebbe ottenere di più? A mio avviso qualsiasi governo politico avrebbe convocato Marchionne, di destra o di sinistra, perché rispetto a un impegno che è stato preso con il governo precedente, ma con il paese, perché il governo in quel momento lo rappresentava, non è ammissibile che un grande gruppo come la Fiat possa dire impunemente ho cambiato idea. Grazie anche all'ex ministro dello sviluppo economico Paolo Romani. La puntata di Focus Economia termina qui, vi do solo un aggiornamento rapidissimo da Wall Street, perché alcuni di voi mi fanno notare che non l'ho data. L'America è calma, tra virgolette, meno 0,20% il Dow Jones. Domani torneremo con altri temi, chiedo scusa, faremo anche il tema di quanto è costata la benzina agli italiani, nonostante il calo negli acquisti abbiamo pagato di più, chiaramente è dato 3 miliardi e mezzo in più allo Stato come tasse, ne riparleremo domani. Per ora, da Sebastiano Barisoni, l'auguro di una buona serata.